Europa 24. Buongiorno a tutti da Daniele Biacchesi, quando sono le 14:02, come avete sentito sui rapporti tra Italia e Unione Europea è intervenuto lo stesso Presidente Juncker, ha detto che ci sono buone relazioni tra la Commissione e il Governo italiano, tra i commissari, lo stesso Juncker con i colleghi italiani, il Premier, nessun problema, dunque l'ha ribadito in conferenza stampa tra il Governo italiano e la Commissione. E qualche cosa si era avvertito già stamattina con le dichiarazioni di Moscovici. Nessuna guerra con l'Italia, che è un membro fondatore molto importante dell'Unione Europea. Pier Moscovici, commissario UE per gli affari economici e monetari, oggi tenta di smorzare i toni. Occorre abbassare la tensione, lavorare su basi oggettive in un clima amichevole, esorta il commissario, interpellato a Davos a margine del World Economic Forum. Massimo rispetto per lo sforzo riformista di Renzi, dice, ma poi non rinuncia ad una nuova bacchettata, seppur velata. L'Italia, dice Moscovici, non può criticare perché è il paese che ha avuto di più in termini di flessibilità, piuttosto ora faccia qualcosa per ridurre il debito. La tensione con Bruxelles dunque rimane sempre alta. Ieri il PPE ha accusato Renzi di mettere a rischio la credibilità dell'Unione e di assecondare il populismo. Nel mirino lo stop che Roma oppone al fondo da 3 miliardi per i progetti di accoglienza dei rifugiati in Turchia, mentre oggi ci sarà l'apertura formale di un'indagine per gli aiuti di Stato all'Ilva. L'Italia è tornata, se ne faccia una ragione la replica di Renzi, che oggi incassa il sostegno del ministro degli affari europei francese. Ma intanto un punto concreto a favore il nostro paese sembra averlo segnato. Così sostiene il Financial Times. La Commissione europea infatti si prepara a modificare la normativa sull'asilo contenuta nel Trattato di Dublino, cancellando la regola che impone ai profughi di chiedere rifugio nel primo paese europeo raggiunto. L'Italia ha sempre definito quest'obbligo un'ingiustizia nei confronti dei paesi che si affacciano sul Mediterraneo. Una vittoria per Renzi, scrive il quotidiano britannico. Alessandra Schetti, Episi Radio 24 e Sole 24 Ore. E proprio sull'Ilva l'Unione Europea ha dunque aperto l'indagine per gli aiuti di Stato. La Commissione europea ha annunciato oggi l'apertura di un'indagine approfondita sugli aiuti pubblici che l'Italia ha concesso negli anni all'Ilva, la società siderurgica di Taranto. In un'attesa decisione presentata dalla commissaria alla concorrenza Margrethe Vestager, la Commissione europea ha annunciato che vorrà valutare se i circa 2 miliardi di euro concessi dallo Stato, anche sotto forma di prestiti o di garanzie, sono avvenuti a prezzi di mercato o meno. Vorrà anche verificare quanto del denaro è andato per bonificare lo stabilimento e quanto invece è stato utilizzato per sostenere la produzione siderurgica nella regione. La Commissione europea applica regole molto rigide sugli aiuti di Stato in un settore dove la concorrenza internazionale è molto accesa. L'apertura dell'indagine approfondita comporterà memorie difensive da parte italiana e audizioni anche con terzi. Beda Romano, Radio 24 e Il Sole 24 Ore, Strasburgo. L'Unione Europea deve riuscire ad avere il controllo delle frontiere, far partire lo schema volontario e nelle prossime 6-8 settimane i flussi di migranti devono essere sotto controllo. Lo ha detto il premier olandese Mark Rutte, il titolare anche della presidenza di turno alla plenaria del Parlamento Europeo, sottolineando che è sua intenzione lavorare con la Commissione, con la Turchia, affinché abbia successo l'accordo appunto con la Turchia, ma anche deve avere successo la ricollocazione dei rifugiati in Unione Europea. La bilancia dei pagamenti dell'Unione Europea ha registrato un surplus di 12,3 miliardi a novembre dopo i 13,2 miliardi di ottobre. A novembre 2014 l'avanzo era di 16,2 miliardi. Questa è la stima di Eurostat. Alle 14:06:22 vi ricordo Europa 24 torna questa sera all'interno di Effetto Notte. Europa 24. In collaborazione con Euronet Plus.